sul passo di gara mi sembra che la Ferrari con queste gomme, le gomme del Bahrain saranno le stesse, cioè morbide e medie, no? Sì. Che sono un po' le stesse che usano, che vengono usate in Bahrain, che sono le gomme che rende, che fanno rendere la Ferrari meglio rispetto ad altri, ad altre gomme. La reazione della Red Bull è prevista, è una pista tradizionalmente favorevole alla Ferrari, cioè qui la Ferrari cerca una conferma, può averla, la Red Bull deve dare un segno e può darlo, secondo me il tema è un po' questo della corsa che arriva, e secondo me bisogna vedere cosa succede ad Alonso in qualifica, perché il dato più importante, più nuovo rispetto all'anno scorso, è che questa macchina lo fa partire terzo, cioè non lo fa partire quinto o sesto, cioè è una macchina che può permettergli di mettere in pista una corsa non in salita. Sì, allora, certo. Se questa cosa si conferma, allora vuol dire che insomma tutti questi discorsi di entusiasmi, di cose che vengono, sono stati fatti dopo la corsa in Cina, hanno una ragione d'essere sul serio, diciamo così. Il giramento delle balle diminuisce un pochino. Gli ha diminuito, cioè, secondo me, cioè lui proprio era, aveva una bella faccia da Pasqui, non lo vedevo così da tanto tempo, e lo vedevo sui cupoli tutto, sì, ingobbito, ingrigito, sì, una roba proprio di uno che, cioè, gli va male tutto, no? Ti è morto il gatto? No, sì, un pochino, ho perso il confetto. Sì, che è un ragazzo molto intelligente, però lui è come Schumacher, cioè come questi qui, non hanno il senso della sconfitta. No, quando vedono qualcosa che appartiene al loro talento e che considerano un elemento di esclusiva proprietà, sì, vedono qualcosa che non ha quella pasta lì, che premia altri. Diventano matti. Io lì ci posso arrivare, non ci arrivo, mannaggia lui, lo farei a pezzi. Sì. Grazie, Giorgio, professore, sempre un piacere. Anche per me, buon lavoro. Tutti convocati, Magazine. Dunque, ragazzi, come sapete, in ogni magazine patinato ci sono, oltre alle foto, alle storie, ci sono anche i giochini, no? Che trovate, non stiamo parlando di cruciverba, eccetera, però un giorno di questa settimana ci è venuto in mente di fare un giochino, e la domanda era, il domandone era, parlavamo di quattrini, ma non solo, il domandone era: ma quanto vale? Quanto vale qualunque cosa? Perché è inutile far finta di nulla, ogni cosa ha un prezzo, ogni cosa è in vendita, soprattutto nel mondo del pallone. Ne abbiamo parlato con Marco Belinazzo a tutto tondo sui tutti quanto vale che ci sono venuti in mente. Allora, risentiamoli. Allora, da che quanto vale partiamo? Da Cavani del tuo Napoli, che dice il suo procuratore vale 70 milioni? Da dove vuoi partire? O da quanto vale sponsorizzare lo stadio del Manchester, il centro sportivo del Manchester United? Beh, partirei dalla seconda richiesta. Vai. Perché la prima mi fa un po' male, ma in ogni caso sono riusciti a fare un contratto con AON, che è la loro attuale sponsor, ma poi non sarà più lo sponsor ufficiale nei prossimi anni, per 8 anni, e guadagneranno da questa intitolazione, da questa vendita dei naming rights, 180 milioni di euro. Questo, come dire, ti fa capire come il calcio ormai vada a diverse velocità, e quelli che vanno veloce vanno sempre più veloci, e sarà sempre più complicato raggiungerli. Senti, ma dicevo prima, citavo il titolo del Corriere dello Sport: Inter Roma vale tutto, naturalmente, dal punto di vista sportivo. In realtà la vittoria in Coppa Italia, leggo, vale 2-3 milioni, ma sommata alla partecipazione in Supercoppa Italiana e alla Europa League. Parliamo dell'Inter, perché è argomento molto di attualità. Quanto vale il bilancio dell'Inter? Come vanno le cose all'Inter? Beh, c'è stato, come sappiamo, come tutti i tifosi nerazzurri, non solo loro sanno, questo ingresso dei russi nella Saras, nell'azienda petrolifera della famiglia Moratti, e si è accesa una speranza sul fatto che i circa 180 milioni che finiranno nelle tasche dei due fratelli Moratti potessero in qualche modo poi essere utilizzati dall'Inter per un piano di rilancio e di sviluppo. Io arrivano i russi. Sono molto cauto, insomma, su questo passaggio diretto. Dall'Ari cinese arrivano i russi. Soldi. I cinesi sono evaporati, sono scomparsi alle parti di via Paolo Sarpi. Per chi conosce Milano sa che è un luogo dove ci sono tanti cinesi e si perdono. E quindi questo affare annunciato in pompa magna la scorsa estate è svanito. C'è ora questa importante, diciamo, strategica alleanza e partecipazione societaria di circa il 20% dei russi nell'azienda di famiglia, ripeto, nell'azienda petrolifera. Che questo si possa tradurre poi in una iniezione di liquidità e soldi freschi per l'Inter, insomma, non ci metterei proprio la mano sul fuoco. Moratti in ogni caso non vuole disinvestire dall'Inter, spendere come ha fatto fin qui nella sua presidenza 1,5 miliardi è qualcosa che resterà, penso, più unico che raro, sì, poi nella storia del calcio italiano. Quanto vale il rispetto del contratto dei calciatori, domanda Nico? Niente, vale niente. Vale niente, soprattutto se c'è una clausola rescissoria, come nel caso del Matador Cavani. Sì. Mi dicevi prima, insomma, commentavamo prima come ci sia un'analogia fortissima con il caso Lavezzi, no? Nella gestione di un contratto che ha visto i due giocatori restare un altro anno, ma con l'introduzione di questa clausola, e poi puntualmente partire in estate. Il problema vero, Carlo, è capire chi potrà spendere i soldi per comprare Cavani, perché anche gli Emiri e gli Sceicchi dovranno fare i conti con il problema finanziario. Ecco, il Bayern potrebbe essere una squadra, come dire, papabile per Cavani, anche perché ha un bilancio, come sappiamo, molto florido e ha anche la possibilità di aumentare moltissimo il monte ingaggi. Sì. Per cui potrebbe essere una sponda interessante. Il calcio tedesco sappiamo che è in grande ascesa. Sì. E non mi dispiacerebbe vedere Cavani in Germania, in insomma, in Germania, magari in Kazakistan, in Russia sarebbe anche meglio, ma vederlo lontanissimo. No, ma fa il bravo, sarebbe, no, ma che Kazakistan è Russia? Per i tifosi napoletani penso sia veramente duro vederlo giocare. È un top player, per usare una parola che non abbiamo mai sentito, un'espressione che non abbiamo mai sentito da nessuna parte. 800 24 00 24, numero verde, parlate anche voi. Quanto vale il gol in fuorigioco di Milito contro il Barcellona in Champions? 2 milioni per la partecipazione ai playoff, si può arrivare alla vittoria per un premio di 37,4, questo solo per i premi che raddoppiano con TV e sponsor, mi sembra di aver risposto. Quanto vale il non gol di Muntari? Domanda Alex. Vale, aspetta che te lo dico. Allora, il campionato, il titolo può valere fino a 100 milioni, il titolo italiano, lo scudetto. Quanto vale la tua testa? Te lo dico io, un puntini. Roberto da Belluno, grazie. Quanto vale il Pescara dal punto di vista dei diritti TV? Perché poi c'è anche questo discorso che faremo. Circa 25 milioni all'anno. Mica paglia, eh? Beh, direi che basterebbero un paio d'anni, insomma, in Serie A. Quanto vale la Juventus dal punto di vista dei diritti TV? Beh, siamo sopra i 100 milioni di euro, essendo la squadra con il maggior bacino d'utenza, bacchettato oggi dall'antitrust. Poi magari ne parliamo. Sentite un po' questo giocatore come cantante, poi vi dico chi è, ditemi quanto vale. Investi svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, non farti guardare. Indovina chi è? Beh, è un brasiliano. È un brasiliano. La cadenza è quella. Canta da cani. Canta non come i brasiliani. No. Solitamente. Gioca nella Lazio, si chiama Hernanes. Bravo, ecco. Hernanes. Quanto vale Hernanes come cantante? Prezzo stracciato, eh. Qui andiamo. A X Factor non lo prenderebbero. No. Senti, Marco Beninazzo, io invece volevo parlare, per chiudere con te, di diritti TV, perché oggi c'è stata una notizia che non ho capito bene, ma l'antitrust i fatti suoi non se li fa mai. Beh, cioè, si fa i fatti di tutti. È intervenuta sui criteri di ripartizione dei diritti TV e ha detto che quella quota legata ai bacini d'utenza, ricorderai, sì, quanto il Lega si è litigato per queste indagini demoscopiche per capire quanti tifosi ha ciascuna squadra. Ebbene, hanno litigato tanto, si sono messi d'accordo, arriva l'antitrust, dice che non va più bene quel criterio, ma bisogna valorizzare invece il criterio meritocratico. Ora io non ho capito bene, bisognerà approfondire la notizia, ma a valorizzare il criterio meritocratico significa dare più soldi a chi vince, quindi sempre agli stessi, che saranno sempre più forti e sempre più ricchi. Dunque un cane che si morde la coda, non credo sia questa la soluzione per creare più equilibrio come in Premier, certo, o in Bundesliga, e né credo che la soluzione sarebbe arrivare e tornare a diritti, alla vendita individuale come in Spagna, altrimenti avremo una situazione di assoluto squilibrio. Il campionato inizia dopo Natale. Praticamente sì, praticamente sì. Tempo che si mettono d'accordo inizia dopo Natale. Quanto vale Nole Djokovic? Visto che sparate alto, allora vorrei rinascere Djokovic. Vi siete dimenticati di quanto pigliano i tennisti? Lo sappiamo bene Lorenzo da Mestre, ma siamo al discorso di prima. Invece la casa di Lance Armstrong vale, è stata valutata $10 milioni. L'ha venduta e ne ha comprata una che vale la metà, perché anche lui ha i suoi problemi. Ha i suoi problemi. Vale 4,3 quella che ha quella nuova. Ragazzi, adesso tuffiamoci in questo weekend che propone tra poco Genoa-Atalanta, partita cruciale per il Grifone sulla via della salvezza. Questa sera gioca la Lazio a Udine già con il derby in testa e ancora non si è capito quando e a che ora si giocherà, e poi domani sera, dopo aver vissuto il Gran Premio e insieme a aspettando le pieghe di Valentino Rossi, ci sarà un Juventus-Milan che vale tantissimo, vale più per il Milan che per la Juventus. La Juventus ha le mani sullo scudetto, il Milan le mani su quel terzo posto, deve ancora di fatto metterle perché mi sembra un po' in calo. Insomma, come vedete, comincio già a buttarvi lì argomenti per il lunedì di tutti i convocati. Domani la strana coppia Gattuso-Ferentino per Dai e Vai, e poi lunedì convocati tutti qui a Radio 24. Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadori, capitan Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo lunedì.